Letture di Radio 24. Il governo di Teheran ha tramutato la condanna di Sakineh da morte per lapidazione a impiccagione. Apparentemente non sembra un gran passo avanti, ma in realtà, come scrive Lucia Annunziata sulla stampa, dimostra che la mobilitazione internazionale è riuscita a produrre qualcosa anche in un paese come l'Iran, solitamente refrattario a qualunque forma di dialogo. Qualcosa si muove persino a Teheran. La condanna a morte per lapidazione inflitta a Sakineh Mohammadi Ashtiani, la donna iraniana accusata di adulterio e omicidio, è stata commutata in condanna a morte per impiccagione. Ridicolo, certo, sostenere che si tratti di un passo avanti, eppure lo è. Lo è innanzitutto perché prova che l'indignazione internazionale viene sentita dal pure sprezzantissimo governo di Teheran. Ma proprio a questa svolta della vicenda è bene riconoscere anche che dopo che gli Stati Uniti hanno eseguito la condanna a morte per Teresa Lewis, il caso Sakineh ha assunto per noi un'ulteriore valenza. Il leader Ahmadinejad, pochi giorni fa, ha equiparato Stati Uniti e Iran di fronte all'uso della pena capitale, e questa similitudine ha lasciato una grande inquietudine nelle coscienze di molti cittadini delle nostre democrazie. Vale la pena dunque di ribadire, esattamente ora, che non c'è parallelismo possibile, nemmeno davanti allo stesso strumento, la pena di morte, fra Stati Uniti ed Iran. La lapidazione è un'antica forma di punizione. È la punizione per prostitute, adultere, omosessuali, oltre che apostati e assassini. Dunque, sia pur non esclusivamente, è punizione per eccellenza del sesso debole. Differenza che si sottolinea persino nell'esecuzione. Il condannato viene seppellito in una buca nel terreno, fino alla vita gli uomini, fino al busto le donne, avvolto in un lenzuolo fino al capo. Se è donna, però, il volto rimane scoperto. Chi abbia mai visto uno dei crudeli video di lapidazione che ogni tanto emergono dai paesi in cui la punizione è praticata, o anche solo tollerata, sa che differenza fa vedere o meno le ferite profonde stamparsi sul volto di chi subisce il martirio. Non è un caso che i paesi in cui questa pena capitale si pratica siano tutti musulmani. Iran, Nigeria, Arabia Saudita, Sudan, Emirati Arabi Uniti, Pakistan, Afghanistan e Yemen, dove vige un diritto strutturato intorno alla legge coranica. In Iran, ad esempio, la lapidazione è stata riammessa dopo la rivoluzione del 1983 ed è ancora oggi la nazione in cui è praticata da più lungo tempo, con una procedura studiata in modo che il decesso non avvenga a seguito di un solo colpo. La legge prevede infatti che le pietre non devono essere così grandi da far morire il condannato al solo lancio di una o due di esse. Esse inoltre non devono essere così piccole da non poter essere definite come pietre. È in questa impostazione del processo, della visione del crimine e del concetto di diritto individuale del cittadino che è maturato il caso Sakineh. Il processo subito dalla donna, le motivazioni della sua condanna, persino le prove di quel che ha fatto sono incerte. Del resto è questo il problema della giustizia in Iran. La disobbedienza è punita come principio e la sua repressione non ha nessun limite se non la soglia che serve alla conservazione dello Stato. Possiamo dire altrettanto della giustizia negli Stati Uniti? Non è perfetta, anzi è densa di discriminazioni di classe e di razza, ma è un sistema che ruota intorno al pieno riconoscimento dei diritti del cittadino e ampio equilibrio di contrappesi perché essi vengano rispettati. Alla fine, certo, una pena di morte è una pena di morte. Teresa Lewis e Sakineh hanno davanti a sé la fine della loro vita. Ma almeno, ai nostri occhi, rimarrà la differenza sul dubbio dell'innocenza, fra l'essere vittime o meno. Per Teresa sappiamo che ha avuto la possibilità di potersi difendere, per Sakineh siamo certi di no. E siccome la giustizia garantisce, o meno, tutti noi, non è differenza da poco, per tutti noi, sapere di avere una certezza di giudizio nell'incerto mondo in cui viviamo. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Lucia Annunziata, Sakineh, dalla pietra alla corda, dalla stampa del 29 settembre. Letture di Radio 24. Ha scatenato molte polemiche la campagna pubblicitaria promossa nel Canton Ticino, nella quale i frontalieri italiani sono raffigurati come ratti. È solo l'ultimo capitolo della lunga storia degli immigrati italiani in Svizzera, fatta di razzismo, ma anche di integrazione. Noi lombardi e voi ticinesi parliamo la stessa lingua. Tutti e due diciamo «va da via il cul», tuonò allegro l'allora leghista di Milano Marco Formentini in visita ufficiale ai cugini. Cugini? Dipende. e lo dimostra l'infame campagna contro i ratti italiani lanciata contro i nostri frontalieri. È da un pezzo che la Lega ticinese, per bocca del suo leader Giuliano Bignasca, dimentico di essere stato condannato nel 93 dalla Corte di Lugano per avere impiegato una dozzina di operai jugoslavi senza permesso di lavoro, insiste nella stessa accusa. I lavoratori comaschi, varesini, verbanesi rubano il lavoro agli svizzeri. Un'ossessione che ha spinto la provincia di Como a titolare «C'è sempre un leghista più a nord di noi». Un'accusa vecchia. Basti ricordare quanto scriveva James Schwarzenbach, che scatenò 3 referendum e nel primo sfiorò la vittoria contro i nostri immigrati e in particolare le loro mogli e i loro bambini. «Sono braccia morte che pesano sulle nostre spalle. Dobbiamo liberarci del fardello. Dobbiamo soprattutto respingere dalla nostra comunità questi immigrati che abbiamo chiamato per i lavori più umili e che nel giro di pochi anni o di una generazione, dopo il primo smarrimento, si guardano attorno e migliorano la loro posizione sociale. Scalano i posti più comodi, studiano, si ingegnano, mettono addirittura in crisi la tranquillità dell'operaio svizzero medio, che resta inchiodato al suo sgabello con davanti, magari in poltrona, l'ex guitto italiano. Per questo sono più indecenti quei ratti usati contro i frontalieri, perché arrivano nella scia di una via crucis segnata da tappe di indicibile dolore. La spedizione punitiva di squadracce armate che a Göschenen nel 1875 spararono uccidendo sugli operai che costruivano il tunnel del San Gottardo e si erano ribellati alla morte dell'ultimo di 144 compagni ammazzati dalle esplosioni di dinamite, dai crolli, dalle fughe di gas. E poi, nei giorni di caccia all'italiano, nel 1896 a Zurigo, quando le autorità dovettero organizzare treni speciali per rimpatriare i nostri terrorizzati. E la chiusura della sala d'aspetto di terza classe della stazione di Basilea agli zingari d'Italia in transito, in larga parte piemontesi, lombardi, veneti. E l'uccisione per motivi razziali di poveretti come Vincenzo Rossi, buttato dal padrone in un alto forno, Attilio Tonola o Alfredo Zardini, ammazzato a pugni e calci da un razzista che fu condannato nel 1974 a 18 mesi. Certo, la nostra storia in Svizzera non può essere ridotta solo a questo. Tantissimi italiani, sia pure spesso dopo grandi sofferenze, sono riusciti a integrarsi benissimo, a guadagnarsi la stima, l'amicizia, l'amore dei nostri vicini. E sarebbe ingiusto non ricordare con le cose che ci hanno dato dolore, ad esempio il rifiuto della cittadinanza ancora nel 2004 ad Armando e Giuseppina Colatrella, che arrivarono nella zona di Lucerna nel 1960 e da mezzo secolo lì lavorano e pagano le tasse. Anche tutte le cose positive, molto positive, che hanno segnato i nostri rapporti. Ma proprio perché accanto alle luci ci sono state ombre, è inaccettabile la campagna partita su internet, ma già pronta a finire sui muri di tutto il Ticino, con 3 topastri presentati ciascuno con una piccola scheda. Il primo, chiamato Fabrizio, piastrellista, di Verbania. Il secondo, Bogdan, rumeno, sfaccendato. Il terzo, Giulio, italiano, avvocato e, per non lasciare dubbi sul cognome, dotato di uno scudo con 3 monti. Eccole, i nuovi nemici del benessere svizzero. Il frontaliero italiano, il vagabondo rumeno, il ministro delle finanze di Berlusconi, reo di aver varato lo scudo fiscale che avrebbe danneggiato le banche elvetiche. Titolo della campagna, Bala i rat, cioè ballano i topi. Sono mesi che la provincia di Como pubblica paginate sui timori dei circa 50.000 italiani che ogni giorno attraversano la frontiera per lavorare in Svizzera, dove certo non avrebbero potuto inserirsi in questi anni se non ci fosse stato bisogno di loro. Un titolo? Lega contro frontalieri. Ci rubano il lavoro? Un altro? Stretta in Ticino. Basta infermieri dal comasco. La campagna coi topi, sul sito www.balairat.ch, va però oltre. E supera perfino i manifesti con le pecore bianche che scalciano fuori dalla Svizzera una pecorella nera presentati dalla SVP, UDC nei cantoni francese e italiano, di Christoph Blocher, noto per aver detto che l'articolo 261 bis del codice penale svizzero, che punisce la discriminazione razziale e chi nega l'olocausto, gli fa venire il mal di pancia. E se i leghisti ticinesi per ora si chiamano fuori da questa forzatura, ci sono deputati cantonali come Pierre Rusconi che non solo sono d'accordo, ma si augurano che sia questo il tema della prossima campagna elettorale. Marco Zacchera, deputato del PDL e sindaco di Verbania, ha già presentato un'interrogazione parlamentare. Non ritiene il governo che questa campagna abbia schietta impronta demagogica e anche razzista e sia in netto contrasto con gli accordi vigenti italo-svizzeri? Ultima annotazione. Michel Ferrise, ideatore della campagna, ha detto che l'anonimo committente gli aveva chiesto di trovare un'idea originale che portasse i ticinesi ad aprire gli occhi su determinate questioni e che aveva scelto i ratti perché il ratto è qualcosa di spregevole e contiene il concetto di derattizzazione. Che sia razzista, non c'è dubbio. Originale, no. Lo dice una vignetta pubblicata un secolo fa dalla rivista americana Judge, in cui il vecchio zio Sam assiste corrucciato allo sbarco da una nave proveniente direttamente dalle topaie dell'Europa di migliaia di topi di fogna coi baffi alla Figaro che hanno scritto sui cappelli o sul coltello che reggono tra i denti «Mafia, anarchia, assassinio». È passato un secolo e noi italiani, grazie a quelli come il signor Ferrise e i suoi committenti, siamo ancora alle prese con le stesse porcherie. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Gian Antonio Stella «Ci rubano lavoro, l'offesa svizzera con quel topo anti-italiano» dal Corriere della Sera del 29 settembre.